sereno può come te poter guardar l'aurora da dietro gli occhi tuoi, che mentre il sole sale piano avere il tuo sorriso e le tue ciglia giovani per pettinare il cielo. Ora che sono, sento il perdono, siedi vicino a me. In fondo al Tao sento il suono, ora la musica c'è. Poter volare un'ora con le tue ali blu, senza aspettar la sera della tua gioventù, e nel ventaglio della mano essere un fior d'aliso dietro la seta del tuo seno. Nascere nuovo uomo, ora che sono, sento il perdono, siedi vicino a me. In fondo al Tao sento il suono, ora la musica c'è.